9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, consentitemi prima di entrare nel tema della giornata un minuto di riflessione con voi. È evidente dalle cronache, dai giornali radio che sentite, che in Italia è in corso una vicenda politica che non ha precedenti, perché non c'è precedente nella storia della Repubblica che partiti che hanno la maggioranza relativa non riescano a presentare materialmente le liste per elezioni regionali. Possiamo parlarne noi? Secondo il regolamento vigente della seconda fase di avvicinamento alle regionali, potrei parlarne solo con ospiti politici pareggiati di peso e mettendo in conto di dover invitare tutti quelli che si presentano alle regionali. Capite che è impossibile, altrimenti come conduttore io sono tenuto a un regolamento a non parlare di città chiamandole per il nome, di situazioni concrete chiamando per il nome i partiti, a non darvi opinioni politiche su come la penso io e a parlare quindi in termini che sarebbero quelli di un romanzo di fantascienza di Asimov, o meglio di Orwell. Allora, siccome io considero questa norma cretina e criminale, chiunque l'abbia votata, io vi invito comunque a protestare. Protestate perché non sono uno che protesta facilmente, però non poter fare il proprio mestiere, come noi siamo messi in condizione di trattare voi da scemi e noi da cretini, questa è una cosa che mi ripugna profondamente, perché dà il senso di come non si abbia più l'elementare misura di cosa sia possibile consentire in un paese. E questo è il modo attraverso cui chiunque sia al governo, quando decidi di fare così, si scava la fossa. Questa è la mia opinione. Sappiatela, ve l'ho consegnata. Mi dispiace se c'è qualche conseguenza per l'azienda. Considero criminale chi ha adottato questa norma che ci fa passare tutti per imbecilli. Ma oggi, appunto, non parleremo di questo, bensì di una questione che a me sta molto a cuore, perché come giornalista io mi sono accapigliato tanto prima e dopo la privatizzazione di Alitalia più di un anno fa a parlare di Alitalia e del traffico aereo nel nostro paese. Bene, credo che spesso abbiamo commesso un errore, ci siamo accaniti nel considerare il traffico aereo, il mercato aereo del nostro paese come se fosse svincolato dal mondo. Stiamo oramai a inizio del 2010, dopo un anno terribile. Io do solo qualche cifra per capire perché oggi abbiamo deciso di allargare un pochino il campo, cioè di fare il punto su la crisi del traffico aereo in prospettiva europea e mondiale, per capire come in questa crisi del 2009 è possibile immaginare lo sviluppo del mercato italiano proiettato sull'estero, ma poi anche rispetto al medio raggio e al breve raggio e alla diversificazione di prodotti e di tariffe che il mercato aereo in questa crisi ci consegna. Vi do solo qualche cifra per capire quanto è profonda la crisi del traffico aereo nel 2009. Partiamo da grandi nomi, partiamo da quello che perde più di tutti. Qual è? Air France KLM, cioè la compagnia che noi abbiamo descritto per anni come l'approdo obbligato, la salvezza obbligata dell'Alitalia, quella pubblica e quella attuale. Ebbene, nel solo terzo trimestre del 2009 Air France ha perso 245 milioni di euro, il suo anno contabile si chiude al 31 di questo mese, il 31 di marzo, gli analisti si aspettano che sia un anno dei peggiori, con una perdita intorno o superiore addirittura al miliardo di euro in un anno. E questo è Air France. Poi per capirci, British Airways nel solo periodo tra aprile e dicembre ha perso 245 milioni di sterline. Ci sono polemiche terribili sui tagli di costo che i britannici stanno introducendo, con i piloti in rivolta. Chi legge i giornali britannici o va a Londra ne sa qualcosa. Lufthansa ha chiuso l'esercizio con una perdita, anch'essa 112 milioni di euro, meno 10% il suo fatturato. Avete letto e visto lo sciopero senza precedenti per 4 giorni di seguito che ha messo in ginocchio la compagnia Lufthansa la scorsa settimana, con le polemiche dei piloti che non facevano che riecheggiare, ma in peggio quelle dei piloti italiani di Alitalia pubblica. Iberia ha perso 273 milioni di euro nel 2009 dopo 13 anni ininterrotti di profitti, e sapete che è candidata oramai agli ultimi passi della fusione con British Airways. Insomma, se uno va a vedere i dati relativi al 2009 dell'associazione delle compagnie, quella europea, vede che in Europa ci sono stati 20 milioni di passeggeri in meno nel 2009, da 346 a 326 milioni, con cali sia nei voli intraeuropei quasi del 6%, sia verso il nord Atlantico meno 5,6, sia verso l'estremo oriente meno 6%, e hanno il segno più solo tratte diverse verso il Medio Oriente, verso l'Africa, anche se i volumi di queste tratte non sono naturalmente pari a dai grandi volumi delle altre destinazioni precedenti. E quindi che cosa significa? Significa che bisogna interrogarsi con grande profondità su qual è il fenomeno che emerge da questi dati. Vi dirò subito che secondo me a essere in crisi, e soprattutto chi ha puntato molto sul medio raggio, perché sul lungo si guadagna di più e bisogna riempire gli aerei, ed è evidente. Sul breve c'è un problema di concorrenza con le low cost. Le low cost abbiamo imparato in questo anno che sono un segmento di mercato aggiuntivo rispetto al traffico ordinario, cioè risolve una domanda che prima non aveva risposta, di trasporto a basso prezzo e a bassa intensità di servizi, ma è aggiuntiva. Ma il grande problema fotografato dalla crisi di Air France, per essere chiaro, è chi ha puntato molto sul medio raggio e quindi ha una qualità elevata ma anche una forte intensità di dipendenti, perché il medio raggio è questa cosa qua, ecco, oggi si trova più in difficoltà. Oggi abbiamo con noi Rocco Saberi, l'amministratore delegato di Alitalia, lo ringrazio perché ci dà un po' del suo tempo, e con lui abbiamo deciso di chiedergli, in questo quadro un po' disastrato, europeo e mondiale, di spiegarci come il modello di Alitalia, ne avevamo parlato perché nell'ultimo trimestre si era visto come avesse recuperato coefficiente di riempimento degli aerei, avesse compresso molto i costi. Su queste premesse cosa ci può dire dell'inserimento di Alitalia in questo? Buongiorno a Rocco Sabelli, buongiorno. Buongiorno a lei. E buongiorno a Nicola Porro, vice direttore del giornale, che sapete, e io ho una elevata stima perché è uno di quelli che sa leggere nei conti di Alitalia e di traffico aereo. Buongiorno Porro. Buongiorno Oscar. Allora Sabelli, che ci dice? Dunque, intanto è utile sapere che traffico di corto medio raggio, parliamo di voli che durano intorno alle 2 ore, quindi per il mercato italiano questo significa naturalmente l'Italia, l'Europa, gran parte dell'Europa e una parte del bacino mediterraneo. Ecco, questo tipo di traffico è di gran lunga il segmento più importante del trasporto aereo, stando ovviamente all'Italia, ma questo vale spesso se non sempre. Il 90% dei passeggeri italiani si muove sul corto medio raggio, e sul corto medio raggio c'è oltre il 60% del valore del mercato. Quindi stiamo parlando del segmento di gran lunga più rilevante per il trasporto aereo. Ecco, un altro elemento, che la crisi del 2009, quella che lei ha appena fotografato, obiettivamente non ha risparmiato né il corto medio raggio né il lungo raggio, anzi la flessione del lungo raggio è stata anche più accentuata. Ovviamente non parlo dei volumi di traffico, dove la flessione è stata più o meno analoga sia nel corto nel medio raggio che nel lungo raggio, ma del valore. Il traffico di corto medio raggio ha perso il 10% del valore, quello di lungo raggio il 20% del valore. Se anche guardassimo agli ultimi 2-3 anni avremmo questo tipo di prospettiva. Quindi la visione, la conclusione che il corto medio raggio sia più in crisi del lungo raggio non è corretta, almeno nel breve medio termine, e che potersi concedere il lusso di avere un posizionamento esclusivo solo sul lungo raggio, di nuovo per le compagnie cosiddette tradizionali, sarebbe sbagliato. Non è una scelta strategicamente, economicamente sostenibile. Questo è un punto fondamentale. È vero però che il breve medio raggio negli ultimi 7-8 anni è, come posso dire, sotto pressione in termini di nuovo valore del mercato. Negli ultimi 7-8 anni il rendimento, lo yield, quindi il valore medio del cliente di medio raggio, è sceso sistematicamente sempre più. Al contrario, il valore del mercato del lungo raggio ha accumulato quasi il 20% di crescita accumulata negli ultimi 6-7 anni. Quindi nello stesso periodo quel tipo di traffico è sotto pressione, ovviamente competitiva e di valore, l'altro presenta una sua crescita. Perché? Mentre tradizionalmente si suol dire che alla discesa del valore medio del passeggero di medio raggio non ha fatto riscontro da parte delle compagnie, vettori tradizionali pesanti come modello organizzativo come Air France, la capacità di tenergli dietro una riduzione dei costi nel medio. È così o non è così? Di Alitalia fra un secondo. Ecco, perché è successo questo? Io più che di crisi, perché tralascerei il 2009 perché, come abbiamo detto, insomma, ha riguardato un po' tutto, ma le tendenze strutturali, la verità è che questi due prodotti ormai, benché svolti all'interno della stessa area di business, vanno differenziandosi in maniera sempre più pronunciata. è una tendenza in atto e che nel futuro si manterrà. In che senso? Il prodotto di corto medio raggio è ormai un prodotto di massa, quindi una sorta di commodity. Il prodotto di lungo raggio è una specialty, quindi un prodotto, diciamo, di valore, di nicchia. Questo diciamo, ha origine certamente per il corto e medio raggio nell'affermazione dei modelli low cost, quindi a basso prezzo, che hanno abbattuto le barriere d'ingresso in termini di prezzo, in parte anche alle dorsali di alta velocità ferroviaria, nelle dorsali metropolitane, perché solo di quello si parla, e in più di questa tendenza sempre più pronunciata a comprare tariffe a basso prezzo. Quindi sono due prodotti che richiedono, diciamo, che hanno una natura diversa e richiedono due modelli competitivi, perché una commodity richiede semplicità, prodotto unico, prezzo, efficienza, funzionalità assoluta. Quando uno pensa alla commodity pensa alla luce, all'acqua, al gas, e ognuno di noi ormai è abituato a pagarli poco e ad averli in maniera, come posso dire, certa e senza discontinuità. Il prodotto di lungo raggio è un prodotto in cui bisogna costruire il mercato, classi differenziate, il prezzo, il valore e quant'altro. Questa è un po', dal mio punto di vista, come posso dire, la tendenza e lo scenario che va costruendosi, partendo ovviamente dai comportamenti del mercato, dei clienti, quindi dalla necessità delle aziende di costruire modelli di business, assetti organizzativi e sistemi competitivi diversi. Se vuole le anticipo quali sono un po' le nostre strategie, oppure se le preferisce No, anticipiamo le strategie, poi andiamo un po', perché io so che poi lei non ha molto tempo dopo, quindi diciamo, se questo è lo scenario, all'Italia, se vuole, l'operazione di privatizzazione, parlo ovviamente della struttura di business, quindi dell'assetto organizzativo, non di altro, è nata esattamente con questo tipo di divisione, perché la tendenza era pronunciata, era quindi visibile. Che significa questo? Che noi oggi abbiamo un modello differenziato per il corto e medio raggio e quello per il lungo raggio, e cerchiamo di assolvere a questi requisiti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, come ho appena detto, costi bassi. Il requisito è avere un modello che consente di avere competitività sul prezzo, quindi costi bassi. C'è un parametro, non voglio esagerare con le technicalities, ma il costo unitario per il sedile che viene offerto è il parametro di riferimento. Le low cost hanno un parametro di costo unitario intorno a 5-6 centesimi di euro, le compagnie tradizionali l'hanno sopra 10, all'Italia oggi viaggia intorno a 7 centesimi di euro. Questo è quello che consente a noi di avere competitività sul prezzo, di avere un posizionamento aggressivo tale da poter competere anche con i prezzi della low cost, sebbene il nostro modello sia differenziato. L'altro elemento è la fermo un secondo rispetto al segmento basso. Qui c'è stata un'offerta recente di riposizionamento, comunque di Air One, che vuol dire esattamente questo, cioè è una fascia competitiva rispetto a tariffe di low, ma su un segmento leggermente più elevato, è così? Esatto, diciamo, la logica è la segmentazione, quindi offrire ai diversi segmenti di mercato un diverso tipo di prodotto. Il lancio di Air One risponde a questa logica. La struttura di Air One è ancor più economica della media di Alitalia, che ho appena detto. Abbiamo costi ancora inferiori perché abbiamo adottato un modello operativo simile a quello delle low cost, quindi diciamo, pur offrendo un servizio inclusivo di talune benefit che le low cost non offrono. Abbiamo individuato un brand coerente, definito una struttura del network, quindi delle destinazioni, e un utilizzo degli aerei e degli equipaggi che è esattamente quello che le low cost usano, che ci consente di essere ancora più competitivi. Ecco, per cronaca, Noi partiremo il 28 marzo da Malpensa, quella è la base di Air One. Oggi abbiamo già 120-130.000 prenotazioni raccolte, il ritmo giornaliero è buono, ci sembra che la risposta sia buona, quindi vuol dire che la logica, il posizionamento è corretta. Naturalmente avremo bisogno di mesi per capire se questo iniziale successo verrà in qualche maniera corroborato. Perché lì le tariffe annunciate sono da una base anche molto bassa, la base di tariffa proprio più bassa per la quale in Italia era 25 euro. Questo quando sì, conferenza. Noi abbiamo 25 euro che è la tariffa d'ingresso per le destinazioni nazionali e 60-70 per le internazionali. È utile però dire, mi faccio approfittare di questa opportunità, che in questo prezzo rispetto alle compagnie low cost noi offriamo l'assegnazione del posto, la possibilità di portare il bagaglio senza costo aggiuntivo, la possibilità di fare il check-in senza costo aggiuntivo e facciamo maturare anche miglia, seppure non in maniera integrale come per un volo a tariffa piena, che è un elemento di grandissimo interesse e appealing per i clienti generalmente. Quindi un posizionamento competitivo in termini di prezzo, ma in termini di valore, come è giusto che sia per una compagnia col nostro tipo di profilo, posizionata in maniera più rotonda, più completa rispetto a E poi a salire invece nei segmenti? Dopodiché esiste, e qui passiamo al brand Alitalia, ma con caratteristiche analoghe, se vuole altri due tipi di segmenti. Uno, le dorsali principali, le dorsali metropolitane, quindi Roma-Milano, ma anche Roma-Torino, Napoli-Catania, le nostre basi, Venezia, le nostre basi, sulle quali col brand Alitalia offriamo un prodotto più indirizzato alla clientela business, che significa non solo le grandi corporate ma anche la piccola media impresa, i professionisti e quant'altro, con un prodotto più tradizionale, quindi con un posizionamento di prezzo più tradizionale, perché è un cliente generalmente che richiede attenzione più al tempo piuttosto che al prezzo, al numero di frequenze, quindi più al prodotto, alla facilità d'uso che esclusivamente al prezzo. Esiste un terzo segmento sul quale Alitalia tradizionalmente ha lasciato, io penso sbagliando, spazio alle low cost, che sono gli aeroporti cosiddetti di terzo livello, ma terzo livello non gerarchico ma solo per dimensione dei flussi, che sono le basi periferiche, quindi quelle con maggiore profondità ancora, quindi gli aeroporti Bologna, Bari, Genova, Trapani, la Sicilia, la Sardegna. Ecco, questi tipi di Verona, questi tipi di aeroporti, noi stiamo avviando una copertura con un prodotto ad hoc, probabilmente usando aeroplani con una taglia leggermente più piccola, quindi aeroplani da 100 posti che quindi danno una possibilità di costo inferiore, ma con una attenzione importante, perché l'Italia, diversamente da molti dei paesi europei e sicuramente da tutti gli altri paesi degli altri continenti, ha una diffusione, una frammentazione dell'offerta e dei flussi rispetto alla quale nessun operatore aereo può concedersi di nuovo il lusso di trascurarla. Ma io ricordo agli ascoltatori che questi sono spessissimo quei tipi di aeroporti sui quali lo abbiamo affrontato il tema tutte le volte che abbiamo parlato in passato di Alitalia, quando abbiamo parlato di Malpensa e così via, su cui è aperta una polemica in relazione a le compagnie low cost, in particolare Ryanair nel nostro paese, che hanno coltivato nel tempo un aumento dei flussi da questi aeroporti su questi aeroporti con il point to point internazionale, poiché questi aeroporti, per così dire, combattono in un mercato più che concorrenziale offrendo le tariffe più basse, e queste tariffe più basse le offrono alle Ryanair potendo contare su finanziamenti pubblici delle regioni per attirare i flussi di traffico, con relativa polemica aperta se questo mercato non configuri un vero e proprio sussidio pubblico, sia pure indirettamente attraverso le cose delle regioni e la società di gestione degli aeroporti, oppure no, perché questo è un problema aperto, visto che nel mercato aereo le polemiche sugli aiuti di Stato ci sono sempre. Lei che dice? Sono aiuti di Stato? Ma guardi, in tutta onestà, io considererei, come posso dire, o vano continuare una polemica che ha visto impegnato all'Italia anche negli anni scorsi sul tema delle low cost. Io penso che le low cost siano una realtà industriale e sicuramente di mercato con la quale noi dobbiamo fare i conti. La nostra non può che essere una risposta di mercato. Noi oggi abbiamo le condizioni per proporci come alternativa di mercato. Ovviamente se ci fossero problemi di sussidi, problemi di, come posso dire, asimmetrie di tipo fiscale, di tipo giuslavorista, che eventualmente ci fossero, ovviamente come dire, creerebbero dei vantaggi competitivi, io penso che non tocca a noi diciamo passare e perdere il nostro tempo a fare queste cose. Esiste la Comunità Europea, esistono i regolatori, io penso che quello è un lavoro che devono fare gli altri, noi dobbiamo dare una risposta di mercato. Una riflessione, penso, se vuole da italiano, va fatta. Non c'è dubbio che il tasso di dipendenza di molti degli aeroporti italiani dalle compagnie low cost, io parlo di tasso di, diciamo, di potere negoziale, è formidabile, perché ci sono aeroporti in cui i flussi di passeggeri sono coperti per il 60, il 70, l'80% da compagnie low cost, ma io penso che questa sia una debolezza, ma per chiunque, fosse anche una compagnia non low cost, ma se un aeroporto ha un tasso di dipendenza così fatto, il suo potere negoziale, e qualche cosa l'abbiamo visto in queste settimane, è evidentemente basso. Ecco, noi attraverso un posizionamento di mercato che ci viene consentito oggi dall'avere una posizione di costo come quella che ho detta, possiamo rappresentare un'alternativa, ovviamente prima di tutto per i passeggeri, ma anche per il sistema aeroportuale, ove volesse riequilibrare il proprio potere negoziale nei confronti delle compagnie aeree. Questo penso sia l'approccio giusto che noi dobbiamo seguire. Bene, io ringrazio il dottor Sabelli, che con ogni probabilità adesso ci deve salutare. Intanto pubblicità, e l'ho fatto parlare a lungo proprio per questo, per fargli esporre questa filosofia complessiva, poi noi andando avanti con gli ascoltatori e con Porro analizziamo un pochino più a fondo. La realtà di questo mercato italiano è un po' in cui nel 2009, in realtà grazie anche a questa concorrenza tra aeroporti e low cost, le cose si sono chiuse con botte un po' meno pesanti che in Europa, perché poi in realtà in Italia nel 2009 il calo è stato circa del 3% dei passeggeri rispetto al 6% dei voli. Eccoci tornati in studio, io inizierei con un paio di telefonate, poi con Nicola Porro vediamo un pochino di questo ragionamento complessivo, che cosa ci convince, cosa non ci convince. Cominciamo con Pierpaolo da Milano, prego Pierpaolo. Sì, buongiorno, vorrei segnalare semplicemente che dovrei andare a Roma durante un weekend e la tariffa di Alitalia parte da 707 euro la libera, scende a 509 la comoda, la facile a 229, chiaramente prezzi estremamente elevati se faccio una comparazione con le tariffe di EasyJet o Ryanair, 707 euro per andare a Roma. Chiarissimo, naturalmente lei ha fatto l'elenco di alcune delle offerte, naturalmente se il prezzo cambia a seconda di come si fa eccetera eccetera, io penso che il mercato esista per soddisfare le domande diversificate, siccome io per anni lo dico a chi mi sta mandando sms dicendo pubblicità all'Italia, no ragazzi scusate, è rivolta all'indirizzo sbagliato, visto che mi sono fatto la fama di essere uno di quelli più feroci perché chiedeva la chiusura del baraccone pubblico per gli anni e anni di perdita accumulata e ripianata dai contribuenti. L'indirizzo è proprio sbagliato. Per quello che mi riguarda, la questione è, dopo aver analizzato a fondo tutti i meccanismi che non ci convincevano o ci convincevano del passaggio dall'Italia pubblica all'Italia privata, dopo tutta la perdita di quella pubblica, tentare di capire come si sta in un mercato in cui ci sono fasce di richiesta di domanda diversificata e quindi la abilità deve stare nel dare offerte che tentano di interpretare al meglio la diversificazione della domanda e che abbiano strutture di costo parametrate a quello che si può ricavare per l'equilibrio dei conti e possibilmente per guadagnare. Questo è il punto su cui fare la riflessione. Naturalmente quando in un mercato si parte dopo anni e anni e anni, di squilibrio monopolista come quello della vecchia compagnia pubblica che straperdeva, il passaggio a un mercato davvero concorrenziale e in cui il privato sia capace di guadagnare in concorrenza con altri privati che guadagnano o come l'anno scorso perdono tutti a bocca di barile, questa è una cosa ovviamente che non si fa da un giorno all'altro, perché i disastri pubblici ereditati sono disastri che hanno conseguenze nel medio periodo. Questa è un po' la fotografia secondo me attuale. Dunque Francesco da Roma, prego Francesco. Tanto buongiorno, mi sentite? Sì, prego. Io volevo fare due osservazioni. Primo, non concordo sul fatto che diciamo le compagnie no fare low cost abbiano tipologie diverse di clienti, nel senso che quasi tutti si stanno orientando verso lo fare low cost. Secondo, quello che contesto dello fare low cost è che le fare low cost non sono quasi mai effettivamente competitive rispetto a quella, al livello di servizio che loro offrono. Loro innanzitutto puntano ovviamente su tempi di turnaround abbastanza stretti, per questo vanno a scegliere gli aeroporti secondari prevalentemente. Certo. Perché ovviamente se dovessero operare aeroporti tipo lo scalo di Fiumicino di Malpensa, a parte di jet che comunque ci opera, però ovviamente i tempi di turnaround sarebbero molto maggiori e quindi poi hanno dei contratti, da un punto di vista dei contratti del personale di volo, che sono dei contratti ovviamente sicuramente diversi rispetto a quelli che normalmente vigono sui paesi nei quali vanno ad operare, quindi sostanzialmente è come se io andassi a comprare i palloni realizzati e fatti fare dai bambini che ovviamente... No, Francesco, io su questa storia dei palloni non sono d'accordo, perché chi lavora e vola per Ryanair, se accetta un contratto di diritto irlandese fino a prova contraria il paese della comunità e lo accetta per lavorare a quelle condizioni, non sono i bambini dei palloni in Africa, perché altrimenti noi vogliamo questa Europa unica, ma non vogliamo accettare che finché le diverse costo di diversi costi separati dei mercati, tra cui quelli del lavoro in Europa, non in Africa, non in Nepal, e comunque io rispetto sia l'Africa che il Nepal, allora o la piantiamo lì di dire che questa è impropria concorrenza, oppure pensiamo di vivere in un mondo non unificato. E io faccio i miei auguri a chi fa questo sogno, lo dico a Francesco da Roma con rispetto per tutto quello che stava dicendo. È vero che nel nostro mercato, anche secondo me, i dati dicono che il settore low, come in tutti i paesi europei quando è esploso, noi siamo arrivati tardi, più che una domanda aggiuntiva era un fenomeno sostitutivo di copertura rispetto alle inefficienze del vettore tradizionale, che infatti ha dovuto iniziare a diversificare la risposta. Quindi sono d'accordo su questo, però la storia che chi vola Ryanair è un povero sfruttato che viene praticamente tenuto appeso sotto le ali mentre pedala, ecco, questa risparmiamocela francamente. Il problema è che accettare contratti di lavoro diversificati fa parte anche da parte dei lavoratori di una maniera di interpretare le difficoltà e le condizioni di offerta del proprio lavoro, e questo non è schiavismo. Questa è la mia opinione. Ancora una telefonata. Patrizia da Trapani, prego. Buongiorno, intanto mi dispiace aver sentito dire da qualcuno che si sta facendo la pubblicità dall'Italia. Perché mi dispiace? Perché penso che noi siamo un paese l'unico che andiamo contro noi stessi, in ogni caso, al di là della pubblicità o meno. Poi volevo dire che, perché ricordo le quote latte, ricordo il problema del vino buttato a terra dai francesi, certo. Cioè tutto un altro comportamento più democratico secondo me, perché il cittadino da solo si difende. Per quanto concerne invece la questione del Arwan, mi sembra interessante cominciare a pensare, ho sentito che ha detto anche Trapani, io vivo a Trapani, cioè Marsala, provincia di Trapani, e comunque l'aeroporto è a Birgi, quindi è su Marsala di fatto, sì. E di cominciare a pensare che si possa togliere il dominio che adesso ha Ryanair. È vero che si riesce a viaggiare anche con prezzi abbastanza competitivi con Ryanair, però ci sono tanti cavilli e tante richieste da parte loro che poi alla fine il prezzo sale comunque, e al di là di questo questo monopolio lo ritengo ingiusto, ingiustificato, e comunque ritengo anche che l'Italia debba cominciare a dare valore alle proprie aziende e quindi trovare un modo alternativo per farli lavorare, per integrarli. Grazie Patrizia. Allora, nella conferenza stampa che è stata fatta il 18 febbraio a Malpensa, in cui tra l'altro sono stati annunciati i nuovi obiettivi per questo Airwan, con offerte che nelle intenzioni di Alitalia sono sul segmento basso ma offrono servizi diversi, aggiuntivi, più qualificati rispetto alla low cost, in effetti nelle nuove destinazioni nazionali annunciate di questa offerta nuova di Airwan, da Malpensa c'è Bari, Brindisi, Napoli, Lamezia Terme, Catania, Palermo, Trapani, e quindi oltre che Alghero e Olbia, e 5 destinazioni internazionali. Quindi pian piano nel modello c'è anche il desiderio di andare a rompere le scatole a Ryanair su Trapani Birgi, esattamente come chiedeva la nostra ascoltatrice. Nicola, di tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, Nicola Porro, da questo momento in poi la voce che si sentirà di più fino a fine della trasmissione, cosa ti convince, cosa non ti convince, che cosa secondo te tendiamo a non voler capire dalla realtà dei dati del mercato del traffico aereo mondiale, nella nostra mentalità un po' troppo ferma a considerare il vettore aereo come italiano, tricolore, come il punto di riferimento, insomma? Oscar, la questione che mi colpisce di più dalla tua trasmissione, ma da tante altre occasioni che ho avuto di parlare di Alitalia, è che Alitalia si considera il prodotto che è sostanzialmente il trasporto da un posto all'altro, si considera un po' diversamente dal telefonino con cui sto parlando ora con te in questo istante. Questo telefonino posso averlo pagato 700 euro, 800 euro, anche 25, 30 euro. Ovviamente la mia scelta è in funzione delle mie esigenze. Alitalia in realtà, come tutte le compagnie aeree, non ha un prezzo alto o basso in assoluto. Quello che ha detto il tuo radioascoltatore, tra 700 e 220 euro, non è vero in assoluto che sia alto o che sia basso 220 o sia alto 700. È vero soltanto se non ci sono alternative a quel volo. Non so se sono stato chiaro, Oscar, certo, su questo. Noi tendiamo a pensare che il prezzo sia un dato assoluto. Io invito tutti quanti a pensare l'esempio molto banale del telefonino: svolgono tutti lo stesso ruolo ma possono avere prezzi molto diversi. Il tema è: ho alternative per fare la Roma-Milano? Questo è il vero problema che si devono porre gli italiani, e non già il prezzo assoluto che l'Italia gli impone, sempre che glielo imponga. Ecco, su questa domanda che mi sono fatto, io ritengo che oggi esista un'alternativa, perché non esiste soltanto la low cost da un aeroporto meno comodo, cioè Malpensa, per un aeroporto più comodo, cioè Ciampino, diciamocelo chiaramente, perché Ciampino rispetto a Fiumicino è più comodo in una certa parte della città di Roma, ma esiste anche quella del treno, cosa che la stessa Alitalia ci aveva detto nel passato. Il governo gli ha assicurato, diciamo, una sorta di monopolio pro tempore da Linate, su cui si può discutere, però obiettivamente oggi si deve riconoscere che esiste un'alternativa. Questo è il primo aspetto fondamentale, cioè non c'è un diritto soggettivo dei cittadini italiani ad avere un prezzo giusto, c'è un diritto dei cittadini italiani ad avere concorrenza, e su questo possiamo anche litigare per mezz'ora se c'è o non c'è concorrenza, ma questo è il tema. Secondo aspetto, poi veramente mi taccio. Detto questo, che in assoluto non è alto o basso 700 euro, io mi chiedo, siccome Sabelli ci ha detto in maniera molto lucida che lui ha intenzione di competere in maniera decisa nel mercato delle commodity, cioè in quel mercato tremendo in cui c'è il treno che ti fa concorrenza, in cui ci sono le compagnie low cost che ti fanno concorrenza, e in cui il cittadino è più attento al prezzo che alla qualità, come tipicamente avviene nelle commodity, anche se si esige una qualità media, mi chiedo: cosa si fa di quell'altra grande parte dell'Italia che invece è interessata al business? Non lo chiedo in maniera polemica dall'Italia, però evidentemente nell'intervista che hai fatto a Sabelli, tra l'altro molto interessante dal mio punto di vista e per niente pubblicitaria, perché insomma poi i giornalisti fanno anche cronaca, chiedono senza, voglio dire, anche qualche volta senza sapere, no? Io mi chiedo, ma non si pensa che una parte dell'Italia abbia una forte esigenza, esista lì veramente un, come ti posso dire, una brutta parola, a me non piace, però un'esigenza di politica industriale per cui, per esempio, nei confronti della parte asiatica, che dal punto di vista del trasporto è la parte che cresce di più, in questo momento in realtà all'Italia abbia preferito alzare le braccia? Io lo chiedo anche in questo senso, non polemicamente. No, ma infatti per capire, lo capisci cosa voglio dire? Io devo dire che la penso abbastanza come te, cioè la sfida del primo anno è stata quella di vedere modulare come si potevano comprimere al meglio i costi di partenza bassi, ma ancora comprimendoli il più possibile per riuscire a perdere il meno traffico possibile, anzi guadagnarne sul traffico interno, domestico e sul medio raggio. Questa è stata secondo me la parte del primo anno, e concordo con te che quella sul lungo, che è quella decisiva, e che oltretutto altrimenti significa che tutta la parte del nord continua ad andare verso i poli Lufthansa, per essere chiari, quelli internazionali, su quella non ci siamo ancora. Eccoci tornati in studio, mi sventagliate di SMS che mi accusano di mi piace il baraccone privato, non mi piaceva più il baraccone pubblico, mi piace il baraccone privato. No, non mi piaceva il baraccone pubblico e non mi piace il privato se continuasse a perdere denaro. Trimestre dopo trimestre ha iniziato a comprimere le perdite fino ad arrivare al pareggio, e questo mi sembra una buona misura. Dopodiché però a me interessa la concorrenza, come diceva Nicola Porro, e lì abbiamo fatto un passo avanti iniziale ma ancora molto limitato, e questa è la cosa che mi interessa di più come giornalista e come anche italiano, oltre che come viaggiatore. C'è chi dice, attento all'ascoltatore che è intervenuto, che diceva 700 euro perché si può andare e tornare da Roma per Milano con 146 euro di tariffa più bassa, e così via. Quindi come sempre, quando si tratta del trasporto aereo, l'esperienza di ciascuno di noi rispetto a dove viaggia, quanto vuole pagare eccetera, prevale sull'argomento. Però attenti a tentare sempre di dire che sono baracconi, sono tutti ladri e così via. Il privato, voglio vedere qual è il suo limite di perdita, o si rimette in pari molto rapidamente e qualche passo si è visto deciso trimestre dopo trimestre, oppure la differenza è che stavolta i soldi il contribuente non glieli dà. E se ci fosse un governo di qualunque colore che volesse darglieli, come sempre io sarò tra quelli che criticherà. Nicola Porro è sempre stato su questa posizione, per questo gli do il microfono e sentiamo ancora una telefonata, quella di Giovanni da Milano. Prego Giovanni. Buonasera, buongiorno Zodianino. Niente, io sono qualche problema, ma ha lavorato stanotte, sì, perché sento buongiorno, buonanotte, quindi... No, sono un turista, infatti, sono un turista, sono un aeroportuale. Ho capito, infatti. Perché, l'ho fatto persino lei che in qualche volta. Ma credo di aver capito anche chi è, da come parla. Prego Giovanni, ci dica. Un signor, sarebbe un guaio. No, niente, semplicemente io ho la mia esperienza invece di operatore del trasporto aereo. Sì. Da noi praticamente la concorrenza si traduce alla fine quasi in dumping sociale, cioè del tipo, le ricordo, lei lo suo stipendio è questo, con questo stipendio ci posso pagare 2 o 3 persone con meno pretese di lei, che fanno meno storie di lei, che si comportano come sagome di cartone, cose del genere, anche perché le parolacce sono quello che prende le parolacce quando il biglietto è troppo caro. Ma posso fare una domanda? In questo caso lei è un dipendente e stiamo parlando di operatori che dipendono dalle società che gestiscono gli scali o dalle compagnie? Società che gestiscono gli scali. Ma vede che in questo caso però la concorrenza tra compagnie, in teoria, se funzionasse bene, dovrebbe consentire a chi gestisce gli scali di non fare ragionamenti come quelli che lei ha fatto. Temo invece che nel caso della società che gestisce lo scalo di Milano, ma pensa Rinate, colpita negli ultimi 10 anni da un numero record di cambiamenti di opinioni innanzitutto dei governi che cambiavano i decreti, poi del tipo di modello di cosa doveva diventare per l'Alitalia pubblica Milano Malpensa e Milano Linate e così via fino alla privatizzazione eccetera eccetera, temo che voi siate stati esposti soprattutto a questo tipo di problema, che la società che gestiva lo scalo ha dovuto fare i conti con un regolatore pazzo, con una politica che cambiava idea ogni 5 minuti e con la compagnia che poi è andata come è andata, tanto è vero che poi ha tagliato i flussi su Milano Malpensa come li ha tagliati, e ciò malgrado Milano Malpensa sta tentando di ricrescere con un piano industriale complicato. Quindi grazie a Giovanni da Milano per la sua testimonianza, ma insomma il caso della SEA e di Milano e dei suoi scali è stato veramente un caso che si studierà, credo, nella letteratura del trasporto aereo mondiale, perché una tale somma di follia si è visto raramente nel mondo. Massimo dalla provincia di Latina, prego Massimo. Buongiorno dottor Giannino, la ringrazio per l'opportunità, la seguo anche come suo analista su altre testate. Volevo solo fare, io sono un pilota all'Italia, volevo solo fare un paio di appunti. Il discorso del lungo raggio in Alitalia non è stato per niente sviluppato, cioè ho stato... Lo diciamo con Porro, ha ragione. Certo. Esatto, e l'Asia è completamente sguarnita. Sono segmenti di mercato che nel trasporto aereo sono ancora, diciamo, non toccati dal discorso delle low cost e sarebbero forse quelli che andrebbero maggiormente sviluppati, tant'è vero che Lufthansa, notizia di un mesetto fa, ha intenzione di acquistare più di 100 aeroplani di cui buona parte di lungo raggio, quindi visto che sono compagnie che non sono certamente compagnie pubbliche che diciamo... Chiarissimo, io sono molto d'accordo con lei. Il problema per l'Alitalia privata è quella o di dare una risposta proprio con mezzi propri e capacità di investimento, attualmente molto limitata perché è concentrata su un'altra sfida del mercato, sull'internazionale, oppure l'integrazione sull'internazionale non può che avvenire con un'operazione che è sul capitale di Alleanza. Air France la vedo problematica con 1 miliardo di perdita quest'anno, quindi c'è una riflessione da fare su questo punto. L'ultima chiamata e poi torniamo da Porro per le conclusioni. La chiamata è di Alessandro da Roma. Prego Alessandro. Buongiorno dottor Giannino. Allora, volevo semplicemente fare una piccola puntualizzazione sul discorso di Ryanair, perché quello che lei afferma, controbattendo a quello che ha detto l'ascoltatore precedente, è anche corretto, nel senso che per Ryanair non è che gli hanno puntato una pistola a testa, c'è un contratto e quello l'ha firmato. Quello che invece forse, penso, voleva dire l'ascoltatore riguarda una cosa molto precisa, cioè il pagamento dei contributi, e parlo ovviamente di chi lavora in Italia per Ryanair. Certo. Il lavoratore italiano che lavora per Ryanair, la Ryanair non gli paga i contributi, e questa, oltre ad essere un danno per il lavoratore stesso, è una grossa stortura della concorrenza. Su questo io sono rappresentante di un sindacato nel trasporto aereo dell'FDL, abbiamo fatto interpellanze, denunce, a cui nessuno ci ha mai dato risposta. Nel senso che i lavoratori italiani di Ryanair non hanno la copertura dei contributi, come fronteggiano questa la copertura in cambio delle prestazioni del servizio pubblico? questo non, ma non le, infatti non ne possono soffrire, e questa è la tortura, ed è questo anche il motivo per cui in Francia risponda a me, perché io so dove voglio parlare con queste domande. Non ne usufruiscono in quanto? In quanto hanno firmato un contratto che è irlandese. Ecco, e quindi? Sono lavoratori italiani che lavorano nel territorio italiano. Però sono lavoratori europei, se è per questo. Hanno firmato quel contratto. In quel contratto c'è scritto che... Le faccio una domanda, guardi. Perché in Francia questo non è possibile? Perché la Francia... L'ha impedito alla Ryanair. Certo, perché la Francia è un paese che ha una compagnia, un presidente, ein Reich, ein Volk, ein Führer. Quella è... E noi vogliamo la Francia come modello? No. Francamente no, io non lo voglio. Io voglio un paese in cui si è liberi, perché nessuno obbliga a firmare i contratti con la compagnia irlandese sottoposta a tasse più basse di quelle italiane, cioè irlandese, e che danno meno in cambio per lavorare. No, io non lo voglio. Non voglio che la risposta sia la Francia di Stato con una pressione fiscale superiore alla nostra e zero concorrenza, perché lo Stato decide per me. Oh, queste sono due visioni del mondo. Nicola, sono un po' troppo rigido quando do queste risposte, però in realtà torniamo al punto di che cosa ti aspetti tu dall'Italia in un 2010 un po' meno grave di questo 2009 rispetto al quadro europeo che abbiamo visto così problematico? Ma guarda, io mi aspetto che quel dato fondamentale che ha dato Sabelli, cioè del costo, diciamo, per la sedia per chilometro passeggero, cioè di 7 centesimi, che è un costo bassissimo e che è il goodwill, è l'avviamento della nuova Alitalia privata, sia sfruttato da questo management nel modo migliore possibile. L'Italia ci è costata migliaia di miliardi. Anche l'ultima operazione di salvataggio, non per colpa di Sabelli e Colaninno, che hanno sfruttato una posizione, ma evidentemente è costata ai contribuenti un po' di soldi, lo sappiamo Oscar, io e te, perché ne abbiamo parlato diffusamente. E non si deve gettare, secondo me, questa opportunità che c'ha l'Italia nel cestino. Quindi sul breve, ovviamente, quello che ci ha detto Sabelli, immagino che sia ben studiato e ben ragionato. Sul lungo termine non bisogna commettere, secondo me, l'errore che un grande dell'Alitalia disse nel passato, cioè una compagnia troppo grande per essere piccola e troppo piccola per essere grande, e con 22 milioni di passeggeri trasportati è il grande dilemma di questa Alitalia. Sì. E c'è un problema serio, che è quello che tu hai detto prima en passant, ma che è il problema dei problemi, e cioè che Alitalia, secondo me, ha avuto la via pensée di utilizzare Air France e KLM per fare i grandi voli internazionali e intercontinentali. Bisogna capire, con le perdite di queste due compagnie, più Air France che KLM, quanto sia integrabile il network italiano, anche perché io non immagino nei prossimi 10-20 anni piccole compagnie nazionali, esatto, di bandiera, perché è una roba che anche, voglio dire, in campagna elettorale per Berlusconi, secondo me, ha sbagliato completamente a instillare nella mente degli italiani. Fuori dal mondo, sono d'accordissimo con questa conclusione di Nicola Porro sull'interrogativo, su cui torneremo quindi tra qualche mese, magari con Sabelli, non solo con lui. Perdonate se ho paragonato la Francia al Terzo Reich, ho sbagliato in questo, ma lo statalismo è uguale, qualunque sia il suo colore. Domani ci occuperemo di socialismo municipale, tanto per non farvi perdere l'allenamento un po' di insano e minoritario liberismo. A domani, la linea generale radio, grazie a Pippo Reggi in regia e Alessandro Marco Tulli in redazione.